e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua di nuovo insieme, Deborah. Buongiorno Nicoletta, come mi dicevamo, trovi? Ti trovo in grande forma, ti ha fatto bene la trasferta romana. Vero? Hai portato anche il sole da Roma, perché qua lo abbiamo miracolosamente rivisto anche a Milano, cosa che non succedeva da settimane, direi. Infatti sono qui. Brava. Ed è tornato il sole. Allora, benissimo. Come sempre, sono le 10.35, vi terremo compagnia fino a mezzogiorno, aspettiamo i vostri interventi al numero verde o su WhatsApp. Oggi torna l'appuntamento della nostra scuola di risparmio. Esatto, oggi mi occupo della borsa americana che continua a correre, nuovi record segnati anche ieri sera, e poi di un altro tipo di investimento che piace molto alle signore e che negli ultimi mesi ha registrato un vero e proprio boom. Parliamo dell'investimento in diamanti, però di quelli che si comprano in banca. È un settore che viene non tenuto... Non quelli che mettiamo al dito. No, noi piacciono più quelli lì, per la verità. Sì. Messaggio subliminale a chi vuole fidanzarsi con noi. E quindi è un settore che viene considerato non completamente trasparente, non si sa come si formano i prezzi, e noi allora abbiamo voluto puntare un riflettore su questo mondo. Allora accomodatevi alla nostra scuola di risparmio, e se sedendovi tra i banchi sentite che il ginocchio fa un rumore strano che non vi convince molto, anzi vi preoccupa, oppure se mentre state seduti sentite il collo che vi tira, le spalle rigide, questa è la puntata che fa per voi. Ricordiamo, Deborah, che a Cuore Denari, sì, febbraio è il mese dedicato alle articolazioni. Continua infatti la Salute Bien Parlando, il progetto che ci vede accanto ai medici dell'Humanitas. Ogni mese affronteremo un tema differente, gli esperti di Humanitas daranno delle indicazioni utili per fare prevenzione, mantenere la salute, mantenere il nostro benessere, ma naturalmente abbiamo bisogno del vostro aiuto, dei vostri interventi all'800 24 0024, perché, come si dice, la salute viene parlando. Sopra il giorno di dolore. Allora, oggi secondo appuntamento con il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica all'ospedale Humanitas, docente dell'Università degli Studi di Milano, nostro esperto del mese, ma anche grande sportivo. Ah, professor Selmi. Buongiorno. Ce lo svela solo al secondo appuntamento. No, io già lo sapevo che corre. Diciamo, faccio parte di quel gruppo di milanesi un po' strani che la mattina prima dell'alba si veste in maniera improponibile e corre per le strade deserte della città, sì, con quindi, piacere. Quindi un filo diretto anche con tutti i nostri amici sportivi che corrono, e con suggerimenti per salvare e mantenere efficienti le nostre articolazioni. Allora, siamo a metà di febbraio, abbiamo deciso di dedicare una seconda puntata che si concentrerà in modo particolare sulle terapie, professor Selmi. Allora, o male o dolore, che faccio? Ma a beneficio dei nostri ascoltatori, come dice Deborah, io vorrei provare una sorta di gioco test, e cioè prendete la parola articolazioni e provate ad associarla ad un termine. A che cosa l'accompagnate? Ad armonia, equilibrio, flessibilità? O al contrario, pensando alle articolazioni, vengono subito in mente parole come ruggine, scricchioli, dolori, rigidità, indolenzimento? Questo potrebbe già essere un'indicazione. 800 24 00 24, perché spesso le nostre articolazioni si fanno sentire. A volte è un indolenzimento, a volte un dolore che si presenta con alcune caratteristiche particolari. Nel corso di questo mese il professor mi ci ha insegnato a individuarle. Infatti vogliamo proprio partire analizzando il nostro disagio, il nostro dolore, per capire un po', non per farci naturalmente autodiagnosi, ma per capire la natura. E allora, se è la prima volta che ci ascoltate, io vorrei col professor Selmi, se d'accordo, fare come si fa in TV, un recupero delle puntate precedenti. Allora, riepiloghiamo con lei quali sono i segnali che possono farci sospettare che il dolore che avvertiamo alle nostre ginocchia, al polso, alle nostre spalle, è un segnale di una malattia reumatica. Questa è forse la parte più difficile del nostro compito, cioè capire quando un'articolazione è infiammata e quando il dolore invece è legato a un suo consumo. Esattamente. Che potremmo definire un po' come le rughe delle articolazioni, tant'è vero che l'artrosi segue di molto anche l'invecchiamento normale. Direi che uno dei primi elementi sia certamente la durata nel tempo. Sì. E quindi un dolore che dura da diverse settimane senza un cambiamento deve far pensare a qualcosa di più profondo e possibilmente di infiammatorio. L'altro elemento forse meno intuitivo è quello della rigidità al mattino quando ci si risveglia, quindi tenendo presente che una certa quota di rigidità per qualche minuto è normale per tutti noi. Sì, però... probabilmente nessuno di noi riuscirebbe ad aprire una caffettiera appena sveglio, a svitare una caffettiera appena sveglio, però... quello che accade è che in persone con un'artrite la durata di questa rigidità è di alcune ore e quindi nettamente fino magari all'ora di pranzo o fino a quando non assumono una terapia. Abbiamo anche individuato un altro segnale che è il gonfiore, che non necessariamente va associato al dolore. Quando il gonfiore diventa sospetto, professor Selmi? Direi sempre, nel senso che quella che chiamiamo una tumefazione, cioè un gonfiore della parte dell'articolazione, soprattutto se dolente, è uno degli elementi che fa pensare fortemente ad un'artrite, per cui in questo senso è qualcosa da considerare. Abbiamo sdoganato un luogo comune, no? Che vuole le malattie reumatiche associate solamente alla tarda età. Invece possono interessare anche i giovani. Quali sono i segnali sospetti che possono individuare il problema in una persona abbastanza giovane? Certamente è una leggenda urbana quella, sì, per cui i dolori reumatici colpiscono le persone anziane. Se è vero che in particolare per l'artrosi sono colpite le persone meno giovani, l'aspetto dell'artrite è molto più associato invece ad età giovanili o al massimo alle signore subito dopo l'età della menopausa, quindi comunque è un'età molto più precoce di quanto si pensasse in passato. Ancora una volta, quelli che abbiamo detto prima, sicuramente il gonfiore, sicuramente un dolore caratteristico e localizzato a livello di alcune articolazioni, soprattutto le mani, deve far pensare. Aggiungerei il mal di schiena che abbiamo tutti, ma un mal di schiena con caratteristiche infiammatorie, cioè un mal di schiena che colpisce soprattutto al mattino al risveglio, sì, e che magari sveglia prima del suono, prima dell'orario previsto, e che ha un'insorgenza di solito molto precoce, prima dei 40 anni. Questo è un mal di schiena che deve farci pensare che possa esserci un'infiammazione, che non sia il classico mal di schiena che ci colpisce alla fine di una giornata dopo aver fatto un trasloco, la spesa. Ecco. Inseriamo nel nostro elenco anche le persone che hanno la psoriasi oppure dei familiari che ne soffrono. Professor Selmi, perché? Perché esiste una forma forse meno nota di artrite, che è l'artrite psoriasica, molto diversa dall'artrite reumatoide, che si associa più o meno in un quarto o un quinto delle persone alla psoriasi. La psoriasi cutanea è una malattia molto frequente, in Italia ce l'ha all'incirca il 3% della popolazione. Più o meno, come dicevo, un 20% di queste persone svilupperanno anche un'artrite. Non è necessario avere una psoriasi personalmente, seria? Ma è sufficiente avere un familiare di primo o anche di secondo grado, quindi addirittura un cugino, uno zio, un nipote, che abbia la psoriasi per essere a rischio per questa malattia. Ecco, questa è un'informazione importante, quindi se nella vostra famiglia c'è una persona affetta da psoriasi e voi avvertite dei dolori un po' sospetti, parlatene con il vostro medico. E poi ci sono dei segnali, professor Selmi, che sembrano non avere nulla a che fare con le nostre articolazioni, ma che un occhio clinico di un reumatologo cattura, e sono la sensazione di secchezza agli occhi, è corretto? Anche alla bocca? Assolutamente sì, la secchezza di occhi, bocca e a volte anche del tratto genitale è abbastanza frequente con l'invecchiamento. Tuttavia può essere un segnale di allarme per alcune malattie, in particolare per le malattie del cannettivo e quella malattia che si chiama sindrome di Sjögren, che colpisce in particolare le ghiandole salivari e lacrimali. E poi il rossore, un rossore al viso, al naso, alle guance, anche in questo caso la pelle ci manda dei segnali che potrebbero essere importanti per valutare il benessere delle nostre articolazioni, in questo caso il malessere. Professore? Ancora una volta qui parliamo di malattie del connettivo, forse quella più nota è il lupus eritematoso sistemico, malattia abbastanza rara, che però si manifesta spesso con un interessamento della cute, in particolare con quello che si chiama un rash a farfalla, quindi del volto con una forma grossolanamente di farfalla, spesso scatenata dall'esposizione al sole. Per cui se questo è uno dei sintomi o dei segni che avvertite, sicuramente parlarne con il proprio medico è un suggerimento adeguato. Allora, 800 24 00 24, ancora 30 secondi, Carmelo, prima delle informazioni sul traffico, per dare la parola a Mara, che ci chiama da Mestre. Buongiorno Mara, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno professore, buongiorno a tutti. Volevo chiedere, io ho un problema alle articolazioni da quando sono entrata in menopausa, quindi 6 anni fa. Una ginecologa mi ha dato come un farmaco naturale Bosart per appunto lubrificarle. Mi sono trovata abbastanza bene, ma allora, cioè, diciamo, io le prendo a cicli non continui, diciamo le spesso ogni 3 mesi. Sì, fa dei cicli. Però io, quando ogni 3 mesi mi fermo e poi un paio di mesi poi le riprendo. Però ancora adesso io al mattino mi alzo che sono rigida, ho le mani dure, i gomiti, le ginocchia. Nonostante faccia attività sportiva, corro, faccio... Quindi si mantiene in moto, fa questo ciclo di una terapia per, Mara ci racconta, lubrificare le articolazioni, però al mattino ha questo problema che è condiviso da molte persone, cioè di questa rigidità, questa difficoltà proprio a rimettersi in moto. Di terapie, quindi, di eventuali integrazioni, di antidolorifici, di antinfiammatori, paracetamolo e delle nuove opportunità che permettono di affrontare con successo le malattie reumatiche, parliamo subito dopo le informazioni sul traffico insieme al professor Selmi, naturalmente a Deborah, a voi ascoltatori. 800 24 00 24, chiamateci, perché dalle vostre domande possiamo utilizzare, prendere spunto per dare anche dei consigli che arrivano a delle persone che vivono la vostra stessa situazione. A tra poco. Cuore e denari. Test the spalla baby, 1, 2, 3, test the spalla baby, 1, 2, 3, test the spalla, test the spalla, test the spalla baby, 1, 2, 3, cola cola baby, 1, 2, 3, cola cola baby, 1, 2, 3, cola cola, cola cola, test the spalla baby, 1, 2. Professor Selmi, questa di Don Luria è la canzone per voi. Dovreste tenerla sempre in ambulatorio perché esatto. Fate una sorta di testa a chi vi viene a trovare, perché le passa tutte, collo, testa, collo, spalle, e lì dove sono tutti parti del nostro del nostro apparato osteoarticolare in cui si può manifestare il dolore, la rigidità, lo scricchiolio, la ruggine, come possiamo chiamarle, professore? Sicuramente sarebbe un test che pochi di noi supererebbero, almeno quotidianamente. È altrettanto vero che i dolori effettivamente possono colpire sostanzialmente i dolori articolari possono colpire qualsiasi articolazione del nostro corpo, e resta da prestare attenzione in particolare alle caratteristiche del dolore. No, i dolori non sono tutti uguali, e quindi saperlo descrivere per tempi, per modi, anche per risposta alle terapie, è indispensabile per cercare di capire quale ne sia la causa. Allora, abbiamo anticipato, Deborah, che insieme al professor Selmi oggi avremo dato delle indicazioni e soprattutto degli aggiornamenti, perché ci sono degli studi dietro, non sono solamente il parere del professor Selmi, ma è proprio supportato da numerose ricerche, da delle evidenze riguardo a quello che serve il trattamento quando riceviamo una diagnosi per attutire il dolore o farlo scomparire, soprattutto evitare che la malattia progredisca. È corretto, professore? E le leggo subito e lo faremo un po' partendo dalle terapie naturali, dai supplementi, per andare agli antidolorifici, parleremo di metatrexate, di biologici, perché le opzioni a disposizione adesso del reumatologo sono tante e diverse. Naturalmente mettetevi in contatto con noi, fateci le vostre domande. In una subito è arrivata da un ascoltatore che vuole sapere che cosa ne pensa, professore, dell'uso della curcuma nella prevenzione e anche nella cura. Abbiamo sentito in tante occasioni decantare le proprietà di alcune sostanze, tra queste la curcuma, sono sostanze che vantano proprietà antiossidanti, antinfiammatorie. Lei che ne pensa, professore? Che cosa dice la letteratura a riguardo? La letteratura sulla curcuma è piuttosto solida. Certamente uno non può pensare che la curcuma sia la unica terapia per un'artrite o per un'altra malattia cronica. Tuttavia gli effetti antinfiammatori sono molto buoni, il profilo di sicurezza è eccellente, per cui io assolutamente non ho che da incoraggiare l'uso di questo. Ripeto, è un complemento di altre terapie. Certo. Però non ho assolutamente nulla da eccepire al suo utilizzo, anzi. Vorrei tornare alla nostra ascoltatrice che abbiamo sentito prima delle informazioni sul traffico. Fa questi cicli di terapia. Attenzione, donna, e le malattie reumatiche hanno un debole per noi, dopo la menopausa, anche questo lo sappiamo bene, un periodo delicato, non solo per il nostro cuore ma anche per le nostre articolazioni, fa questi cicli di terapie naturali, che sono state suggerite dalla sua ginecologa, ma non è molto soddisfatta, lamenta una rigidità mattutina che è molto invalidante. Professor Selmi, questo ci dà uno straordinario assist per iniziare a parlare di terapie possibili. Certamente, l'amica di Mestre credo che potrebbe avere beneficio da una valutazione, nel senso che alcuni elementi che racconta possono far pensare che si tratti di un'artrite. Se d'altro canto quello che si dimostrerà è un quadro di artrosi, so che oggi sono molto utilizzati i supplementi come alcuni che sono stati menzionati. In realtà i dati della letteratura sono abbastanza scoraggianti da questo punto di vista, nel senso che il dato non è così a favore dell'utilizzo di questi, se non per lungo tempo, parliamo di almeno 2 anni, e a un dosaggio di 4-5 volte quello che generalmente viene utilizzato, per cui ai dosaggi utilizzati generalmente di questi supplementi l'effetto è francamente marginale. Allora, via WhatsApp, e poi diamo la parola naturalmente ai nostri ascoltatori che stanno chiamando l'800 24 00 24. Vedo che ci sono tante telefonate in attesa. Acido ialuronico può essere utile per le articolazioni, ci scrive Bianca d'Ancona. L'utilizzo... E come? E dove? Beh, l'utilizzo deve essere quello intraarticolare, lasciando perdere quello cutaneo per fini estetici, che naturalmente non ha effetto sul dolore articolare. Mi auguravo che spianando magari un po' la ruga anche l'articolazione niente, sopra sarebbe l'effetto benefico, niente invece. Quello potrebbe dare certamente benessere generale, però sull'aspetto articolare, l'iniezione intraarticolare, che generalmente si ripete poi settimanalmente per la maggior parte delle articolazioni, ha un effetto sostanzialmente lubrificante e quindi ha un effetto meccanico sull'articolazione e quindi benefico per alcuni mesi generalmente sull'articolazione dolente. Non è una cura, ma va a ridurre il dolore legato in particolare all'artrosi. Quindi legato all'artrosi, sì. Quindi parliamo di un dolore dovuto all'usura, meccanico. Un po' degli anni o un po' anche per una cattiva postura o per dei traumatismi che si sono verificati. Allora abbiamo Davide che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Davide. Io non mi sembrava vero sentire questa trasmissione, perché appunto sono in mezzo ad un problema. Io corro, faccio il runner da un annetto ormai e ultimamente ho dei dolori al ginocchio destro interno sotto la rotula che non vanno via. Pur riposando, quando poi ricomincio a correre mi ritornano. Io corro per un'oretta, un 10 km, quindi ho preso anche degli antinfiammatori che fanno andare via il dolore momentaneamente, però poi ritorna nel momento in cui io ritorno a correre. E sinceramente non so più cosa fare. Davide, l'ha detto in modo proprio sconsolato, ultimamente non so più come fare. Allora, professor Selmi, tra l'altro lei grande solidarietà per il compagno... Completa solidarietà naturalmente, e bisognerebbe vedere qual è la causa del dolore. So che è una risposta, come dire, abbastanza... Non da runner. No, però esistono delle condizioni che possono temporaneamente controindicare il carico da parte della corsa. La corsa su un'articolazione artrosica non è lo sport ideale perché ha un alto impatto. Quello che si può fare è cercare di capire se il problema sia muscolare, sia dei legamenti, quale sia, quindi un'indagine... Oggi più facilmente con una risonanza magnetica credo che sia molto utile. D'altro canto, se si tratta di un dolore meccanico, quello che si può fare è temporaneamente passare ad altri sport che rinforzino la muscolatura intorno al ginocchio, quindi penso soprattutto al nuoto, alla bicicletta, per poi tentare cautamente di ritornare alla corsa. Esistono poi delle sindrome legate alle brevi tratti di corsa che possono essere esclusi da una visita ortopedica, però direi all'amico di Milano di non rinunciare per ora alla speranza e di farsi vedere. Allora, e naturalmente gli amici che stanno scrivendo e che come professor Selmi come lei corrono hanno i suggerimenti e quindi prova a cambiare scarpe, rimposta la tecnica di corsa e quindi noi siamo in ottima compagnia. Abbiamo 2 minuti prima di dare la linea al nostro GR, ma vorrei aprire proprio il capitolo, come abbiamo detto, delle terapie. Abbiamo parlato dei supplementi. Quando noi abbiamo dolore, cosa facciamo? Per spegnerlo prendiamo un antidolorifico. Il nome già ci aiuta. Professore. Gli antidolorifici sono delle soluzioni spesso preferibili per quanto riguarda il dolore soprattutto artrosico, quindi da consumo dell'articolazione. L'esempio principale è certamente il paracetamolo, sì, che è un farmaco abbastanza onesto, cioè ha degli effetti collaterali solo con dei dosaggi elevati. Sui dosaggi inferiori generalmente è molto molto sicuro. Cosa vuol dire inferiori o elevati? Veramente sotto i 3 grammi, cioè sotto i 3000 mg al giorno, sono sicuri sostanzialmente in chiunque. Dall'altra parte gli antinfiammatori invece devono essere usati con cautela e per brevi periodi di tempo. E per saperne di più restate con noi 800 24 00 24 GR, poi di nuovo insieme. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, come anticipato, parliamo di articolazioni. Questo è il mese delle articolazioni, è il mese che apre il progetto La Salute Vien Parlando, che ci vede a fianco degli specialisti di Humanitas. Qui in studio invece con noi, pronto a rispondere alle vostre domande, a dare delle indicazioni e soprattutto ad aggiornarci sui trattamenti e le terapie oggi a disposizione per spegnere il dolore, ma anche per attutire l'infiammazione, per evitare che progredisca, il professor Selmi. Professor Selmi, parlavamo di antinfiammatori prima del nostro GR, istruzioni per l'uso per evitare l'abuso. Sì, sono forse tra i farmaci più utilizzati e generalmente il primo livello per la terapia del dolore articolare e dell'infiammazione articolare. Due grosse categorie, non steroidei, quindi diclofenac, ibuprofene, quelli che tutti noi conosciamo anche per cefalea, eccetera, sono farmaci con un profilo di sicurezza abbastanza sottile, quindi vanno usati al dosaggio giusto e per brevi periodi, e spesso non sono dei farmaci eccellenti da usare al bisogno, meglio usarli magari per brevi cicli. Brevi cicli cosa significa? Una settimana, 10 giorni, massimo due settimane, eventualmente ripetibile il mese successivo. L'altra grossa categoria sono invece i cortisonici, e questo è un farmaco antico di grandissimo uso tuttora e di grandissima efficacia antinfiammatoria. Usano soprattutto per, stiamo parlando di dolori da usura o da infiammazione, quindi per artrite o artrosi? Scusi. Esclusivamente da infiammazione. E quindi artrite, il grande capitolo delle artrite. Esattamente, quindi usare il cortisone rimane oggi una delle terapie più efficaci e più veloci per risolvere l'artrite. Quello che oggi non si fa più è usare in maniera indefinita e prolungata il cortisone anche a basse dosi. Questo è qualcosa che dobbiamo cercare di evitare, soprattutto per gli effetti a lungo termine sull'occhio, sull'osso, sul peso, su tutta una serie di meccanismi, per cui sostituendolo con dei farmaci che invece possono essere usati più a lungo. Il primo, generalmente la prima scelta, rimane tutt'oggi il metotrexato. Ecco, vogliamo, ci aiuta a capire perché noi, quando il medico, lei lo sa meglio di me, ci prescrive una terapia, cosa facciamo? Consultiamo il dottor Google e sul dottor Google troviamo, Carmelo ride, e benedetto dottor Google, perché troviamo tante indicazioni. L'importante è sapere però muoverci, perché non sempre le fonti sono attendibili, bisogna cercare le fonti che ci dicono la verità, e la verità per quanto riguarda le terapie spesso è supportata da degli studi. Professore, allora, se ne sentono sul metatrexate di tutte e di ogni, come si dice a Milano, e spesso il paziente è molto spaventato. È vero che l'utilizzo del metatrexate ha rappresentato una svolta nel trattamento delle malattie reumatiche, ma a che prezzo e per quale profilo di pazienti? Detto trexate rimane oggi una delle armi principali che noi abbiamo in questi pazienti, e spesso è accompagnato, appunto, come dicevi, da una fama pessima, sia su internet sia tra i pazienti. Questo è legato al fatto che a dosaggi nettamente superiori e con ben altri compagni di terapia viene utilizzato anche come chimioterapico. Sì. Il dosaggio usato in reumatologia non ha assolutamente questo effetto, né tantomeno ne ha gli effetti indesiderati. È un farmaco che può avere degli effetti collaterali. Come tutti i farmaci. Esattamente, che viene somministrato di solito a cadenza settimanale, può avere degli effetti soprattutto digestivi, quindi con dei disturbi sia alti sia bassi a livello digerente, può dare un'alterazione delle transaminasi che infatti vanno controllate, e ultima cosa, è fortemente controindicato in gravidanza, per cui in questo senso l'aspetto di pianificare la propria vita riproduttiva da parte delle pazienti di sesso femminile è indispensabile quando si pensa ad una terapia per l'artrite. Quando lei infatti nella puntata precedente ha detto: io sono la terza persona che deve sapere se la donna desidera avere un bambino. Questo di solito spaventa molto i mariti, che sì, pensano che io sia chissà chi, ma generalmente è quello che dico. Sì. È importante pianificare. Oggi non diciamo praticamente più a nessuna donna che non potrà avere gravidanze. Certo è che è importante pianificarla e cercare di scegliere che avvenga nel momento in cui la terapia lo permette e anche l'attività della malattia idealmente sia spenta. Quindi una buona pianificazione credo che sia indispensabile anche per il successo della gravidanza. 800 24 00 24, ultimi minuti prima di sederci ed accompagnare Deborah alla nostra scuola di risparmio, ma ritorniamo all'utilizzo di sostanze naturali. Abbiamo parlato di curcuma promossa. Un ascoltatore ci suggerisce il ribes nero derivato dai germogli. C'è una letteratura, fa bene, per quanto tempo? I frutti di bosco in generale hanno un buonissimo profilo. I flavonoidi in genere contengono tanti flavonoidi che hanno un effetto sia antiossidante ma anche antinfiammatorio, per cui il loro uso certamente è consigliabile. Non è ancora una volta una terapia unica e risolutiva. La condroitina funziona? Questo messaggio che è arrivato al 349-238-6666, professore, mi dà l'assist per chiederle. Sentiamo suggerire tanti integratori, li leggiamo anche. Ecco, sull'uso dell'integratore molti medici sono scettici sugli effetti che si possono ottenere dall'utilizzo di questi prodotti, soprattutto perché vanno utilizzati, nel caso specifico delle articolazioni, per tanto tempo per vedere degli effetti, quindi questo ha anche dei costi, mentre noi vorremmo magari avere, come spesso capita, un effetto immediato. Ecco, è informazione anche questa, sapere che alcune sostanze funzionano ma a dosaggi elevati e prese per tanto tempo. Professor Selmi, è corretto? Questo è esattamente il caso dei supplementi per la salute delle cartilagini, e quindi i dati non sono molto entusiasmanti. Non sembra che prevengano l'artrosi, funzionano bene in laboratorio dove sembrano far riformare la cartilagine. Gli studi invece su persone hanno mostrato che l'uso deve essere appunto per almeno 2 anni e a dosaggi molto elevati, nettamente superiori a quelli che generalmente vengono assunti, e devo dire, trattandosi di farmaci anche a totale carico dell'assistito, sono dosaggi anche con un costo significativo mensile, quindi credo difficilmente suggeribili alla maggior parte. Cosa dice la donna pazienti? Di denari qua? Denari, che sono aspetti delicati e che purtroppo oggi bisogna considerare anche, insomma, nella trattazione, immagino, di ogni tipo di patologia, peraltro. Allora, aiutiamo la nostra amica ricamatrice, ci scrive spesso, è vero, Antonella. Carina, sì. Io poi, che ho difficoltà, essendo mancina, ad attaccare un bottone, ho una grande ammirazione per Antonella. Tanto, 30 anni. 30 anni di lavoro, di ricamo, sforza molto le mani, sta prendendo per prevenzione integratore a base di acido ialuronico e vitamine. Professor Selmi, Antonella fa bene? in generale non sono un grande sostenitore di questo di tipo 30 di anni, scusate, no, credo non 30 di aver anni, interpretato che io. Sia una trentenne. No, di 30 anni, io invece pensavo da 30 anni. Ma una trentenne, dicevo... questo cambia decisamente il quadro e credo che sia importante una valutazione prima di decidere quale sia la causa però del dolore. Però sforzare le mani per una ricamatrice o per tutte, adesso noi abbiamo parlato di ricamatrice, ma ci sono tante persone che svolgono dei lavori con le mani, no? Manuali, beh, si dice. Ecco, per queste persone è opportuno per fare prevenzione adottare uno stile alimentare, delle attenzioni particolari, delle integrazioni, cercare di fare un po' di prevenzione perché li sottopongono, li sollecitano a degli stress. Certamente sì, però è ovvio che non possiamo consigliare di cambiare lavoro anche a persone che utilizzino appunto alcune articolazioni più di altre. Quello che può effettivamente prevenire l'artrosi, sebbene noi non camminiamo sulle le mani, è mantenere un peso adeguato e quindi uno stile di vita sano. E questo credo che valga comunque indipendentemente dal profilo di lavoro. Allora, abbiamo rapidamente Diego da Vicenza. Buongiorno. Sì, buongiorno. La mia ragazza ha 24 anni, ha fatto nuoto agonistico per tantissimi anni, da un paio d'anni ha smesso. Ha purtroppo dei grossi dolori alle mani. Sono totumefatte, gonfie, poca forza. Dagli esami clinici al momento... Diego, però sembra che lei parli da una caverna. Può avvicinare allora la ragazza... Sono chiuso in macchina. Adesso sì, la sento. La mia ragazza ha 24 anni... ha dolore alle mani, gonfie... Ha dolore alle mani, gonfie, tumefatte, ha difficoltà a prendere le cose. Dagli esami clinici al momento non è uscito niente. La mia domanda è non tanto quello che ha, perché lo scopriremo, spero, ma cosa si può fare per lenire un po' il suo dolore al momento senza usare farmaci, perché a volte veramente ha difficoltà anche a prendere in mano qualunque cosa. Grazie Diego, ragazza molto giovane con un quadro abbastanza complesso in attesa di esami che da quanto se abbiamo seguito la puntata possiamo non dire fare diagnosi noi ma ci arriviamo quasi. Professor Selmi, c'è togliamo il dolore senza prendere farmaci, in questo ad alcuni livelli di situazione diventa un po' difficile. Beh, sì, cioè scegliere di agire senza farmaci credo che sia abbastanza poco utile, onestamente. Cioè, quello che spesso mi viene detto, sai, io sono contrario ai farmaci, la mia obiezione è, sai, io sono contrario alle malattie, quindi troviamo un punto di incontro e parliamoci. Nel caso della ragazza credo sia indispensabile arrivare a una diagnosi, ma credo che da questo punto di vista sia già avviata. Preferirei degli antidolorifici, ovviamente non posso fare prescrizione in questo modo, però gli antidolorifici con un buon profilo di sicurezza, ad esempio il paracetamolo, credo che abbiano, ripeto, comunque un... Il caldo va meglio sulle mani che hanno questi dolori o il freddo? Caldo per riscaldare o freddo per raffreddare l'infiammazione? Generalmente meglio il caldo. Meglio il caldo, quindi... Già, questa è un'indicazione assolutamente naturale. Allora, noi andiamo a parlare di... Ci sediamo? Sì. Le nostre ginocchia sono... Così ci riposiamo le articolazioni doloranti, magari ne traggono anche un po' di beneficio. Voi continuate a scriverci, la salute viene parlando e poi continueremo il nostro viaggio. La mail, vi ricordo, è salute@radio24.it, ma soprattutto andate a sentirvi i consigli del professor Selmi che potete trovare sulle pagine di questa bella iniziativa e grazie soprattutto per il vostro sostegno. Ci avete dato veramente... Scritto in tantissimi, sì. E continuate a dare grandi soddisfazioni. Professore, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ci sentiremo per parlare di Tai Chi prossimamente, vero? Che è un amico delle nostre articolazioni. Molto amico, molto positivo, mantiene in forma ed è adatto praticamente a tutti. Quindi dedicheremo un approfondimento proprio al Tai Chi. Se lo praticate, scriveteci. Allora, per quello che mi riguarda, che ci riguarda, noi che siamo da questa parte della trasmissione che ci occupiamo di denari, due i temi che oggi proponiamo agli ascoltatori. Primo, la borsa americana sta toccando un record al giorno. Sembra passato un secolo dal periodo terribile che ha seguito la bancarotta di Lehman Brothers, eppure gli Stati Uniti sembrano aver definitivamente archiviato una delle crisi finanziarie peggiori della storia, mentre da noi ancora il tunnel sembra senza fine. Così, incoraggiata dagli stimoli finanziari, fiscali promessi dall'amministrazione Trump, Wall Street corre in ogni settore, questo è un tema.